Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Oh, lunedì, bambino Alberto, hai fatto un bel weekend, ecco, io ho portato Tito in campagna, si è divertito, ha corso, ha abbaiato, soprattutto adesso è stanco. Voi vi siete divertiti? Sì, tu invece? Io no, perché questo fine settimana il papà e la mamma hanno litigato tutto il tempo. Succede ogni tanto. Infatti. E per quale motivo hanno litigato, se si può sapere? Di solito è per motivi, cioè diciamo di parità di genere, No, niente. Non sarebbe niente, bambino. Vi dà fastidio, quando lo dico io niente. Ci dà fastidio se a dircelo un bambinetto, per forza. Bambinetto spocchioso come te. Quando siamo noi come? Che... No, spocchioso. Vabbè, adesso non cominciate. Però quando siamo noi adulti a dirti niente, non devi innervosirti perché diciamo che è la normale dialettica tra maggiori e minori. Sì, come no, certo. Però minore non vuol dire minorato. Vabbè. No. Per cui. Ci siamo capiti, Sì. Comunque torniamo a bomba. La bomba. Litigi dei miei genitori. Che bello. Vi spiegavo prima. I litigi nascono quasi sempre per motivi di parità di genere. Cos'è? E cioè, allora un attimo. Cioè, mio padre non vuole fare i lavori di casa. Chiaro. Non c'è niente di peggio che fare il lavoro in casa. Parità di genere. Ho capito, ma non è così semplice, perché tra la mamma e il papà c'è un accordo prematrimoniale firmato, autenticato dal notaio, una cosa seria. E questo contratto dice, tra l'altro, che i lavori di casa sono equamente distribuiti tra i coniugi. Ma addirittura un accordo prematrimoniale per i lavori in casa? Eh sì, perché la mamma me l'ha spiegato, no? Cioè, lei non voleva sposarsi per fare la donna di casa, no? Beh certo, lei è femminista, appunto, di sinistra. Ma lei lo sapeva già che gli uomini, prima di sposarsi, fanno sempre tante belle promesse, no? Ti aiuterò, facciamo tutto insieme, che bello, la vita a due. E poi se ne rimangiano tutte le promesse. Quindi lei, furba, si è tutelata. Vabbè, sì. Secondo me si è tutelata sui lavori di casa, ma intanto poi litiga con tuo padre proprio per quelli. Quindi scusa, che tutela è? È una tutela contro il matrimonio felice. Però dai, tutto sommato, secondo me la mamma del bambino Alberto ha fatto benissimo in qualche maniera a impegnare il marito per iscritto, perché è l'unico modo per evitare poi inutili discussioni. Ma... non vuoi lavare i vetri? Mi spiace, c'è la tua firma qui, quindi lava i vetri, lavali pure bene. Ma non funziona. Il bambino Alberto ha appena detto che i suoi hanno litigato tutto il weekend proprio per i lavori di casa. Firma o non firma, accordo o non accordo, alla fine le cose vanno come devono andare, cioè che i mariti, piuttosto che fare i lavori in casa, si tagliano una gamba. Allora, è andata così. Mia mamma, sabato mattina, alle 8, ha svegliato mio papà. Alle 8. Come d'accordo, L'accordo di prima. Sì. Il contratto sottoscritto da entrambi i coniugi. Col notaio, vabbè. E mio papà, il sabato mattina alle 8, non è mai sveglio. Che se fosse per lui, dormirebbe fino a domenica mattina. Tutto filato. Quindi, quando mia mamma l'ha svegliato, lui ha reagito subito malissimo, no? Vabbè. E hanno subito iniziato a litigare, a beccarsi. A un certo punto, mio papà se n'è andato via di casa. Sì, perso i pantaloni e una maglietta, e ha detto una roba tipo... basta, non ce la faccio più! Io me ne vado e stavolta non torno, Quindi ha preso me ed è uscito. Ma come ha preso te? Sì, sì, mi ha preso per un braccio che non avevo ancora finito di vestirmi. Ma tu cosa c'entravi? Mi ha portato con lui a fare un giro in macchina. Un giro in macchina? Sì, per rilassarsi, no? Calmarsi! Certo, per calmarsi uno fa un giro in macchina a Milano poi. Ma ti sembra, sabato scusa? Sabato mattina, vabbè. Sì, c'è tanto per calmarsi, cioè quello... prima, seconda, terza, il quarto è a 140 all'ora. Ma come? Ma a Milano? A Milano, il giro in quartiere. Quindi è stato un continuo di frenate, passaggi con rosso. Abbiamo sfiorato dei vecchietti con le carrozzine. Poi, una volta finito il giro, senza neanche fare colazione, senza neanche un caffè, via, siamo partiti per Roma. Come Roma? Vabbè, però bello, no? Ha voluto fare un fine settimana con suo figlio a Roma. Da uomo a uomo, così, perché aveva appena litigato con la moglie, mi sembra una bella cosa. Ma non ho capito i 140 nel quartiere. Vabbè, si è sfogato un po', però è andato anche in autostrada. No? Poi, weekend a Roma. Sì, weekend a Roma. Siamo arrivati al grande raccordo anulare, no? Sì. E che erano già le 8 di sera. Mio padre mi ha guardato e mi ha detto, ehi, bambino al bambero. Sì, perché anche mio padre è storico. Bambino Baldambembo! No, poi Baldambembo no, infatti, al Bamberg, adesso al Bamberg. Sì, ma lui poi storpia a oltranza, poi no. Cosa vuol dire? Con tono giocoso, è aggressivo, vuole farmi arrabbiare, no? Eh. Quindi mi guarda e mi fa, uè, bambino Bisola, ormai qui si sta facendo buio. E Roma è più bella alla luce del giorno. Vabbè, quindi io dico, mi sono detto, dormiamo in un motel. Oh, che bello. Oh, adesso mangiamo e ci riposiamo. Col papà, che bella cosa. E invece cosa avete fatto? E no, bambino F, Roma? E la vediamo un'altra volta. Vedi là in fondo? Quella cupola, quella cosa enorme. Quella lì è la casa del papa. Però oggi non andiamo. Abbiamo fatto dietro front e siamo ripartiti per Milano. Ma come? Sì, dico, papà, ma cosa facciamo? Io ho fame, ho sete. E non ci fermiamo neanche un autogrill, Ma come? No, è perché voleva farsi montare la rabbia. Ma di nuovo, ma fino a Roma è andato. Per tornare a picchiare la moglie, forse. Ha sentito che stava calando la rabbia, no? Ah, e ha detto, ma no, non voglio dare soddisfazione a quella là, che è mia madre. Sì, niente, non si ferma, non mi fermo neanche di autogrill, non bevo un caffè, piuttosto ci schiantiamo. Ma come? E ma... papà. E niente, è andato nel vuoto. Anche perché c'era sempre il finestrino aperto. E qui non sentivo niente, io urlavo, ero convinto che lui mi sentisse. Ma come il finestrino aperto? In autostrada? Sì, a 160 all'ora. Ma come? Ma un freddo... È freddo, umido di sera! Beh, i moschini poi. E siamo a mio padre, se non c'era il finestrino aperto, e magari sveniva, no? Ho capito, ma tu non gli dicevi niente mentre eri lì. Cosa potevo dirgli? Non lo so. Papà, non correre, dai! Dai, non correre, papà, per favore! Dai, papà, non correre, papà, dai! 140 all'ora, andiamo via. Il cielo si fa scuro nella sera. Premi l'acceleratore senza paura. Non ti fermi neanche all'autogrill. Non correre, papà. Non correre, papà. La mamma è morta già sull'autobahn. Non correre, papà. Non correre, papà. La mamma è morta già sull'autobahn. 150 all'ora nella notte, siamo partiti da Roma alle 21, da casello a casello 5 ore, a Milano prima delle 3. Non correre papà, non correre papà, la mamma è morta già sull'autobahn. Non correre papà, non correre papà, la mamma è morta già sull'autobahn. Perché sorpassi un SUV metallizzato? Oddio, c'è il guardrail così vicino. Occhio, frena, cazzo! È morto il mio papà. È morto il mio papà. È tutto spiaccica sull'autobahn. È morto il mio papà. È morto il mio papà. È tutto spiaccica sull'autobahn. Beh, ma cosa sono tutte ste mail? Ma sei impazzito? Guarda, pensa quante mail sono arrivate. Cappa, non le ho nemmeno stampate tutte, hai capito? Alcune si intitolano "Ma che cazzo ne sapete voi?". Basta con le parolacce. Ma no, basta con le parolacce, mica l'ho scritta io sta mail. Leggine un'altra, cioè mica sono tutte con le parolacce. Dice la caccia a scuola a Rocchetta di Vara. Sì, vabbè, perché questo effetti è l'argomento. L'argomento di tutte le mail che ci sono arrivate, sono veramente tantissime, è appunto quello del comune di Rocchetta di Vara, in Liguria, provincia di La Spezia, dove il sindaco aveva deciso di indire delle lezioni di caccia durante il normale orario scolastico delle scuole elementari. E quindi noi ne abbiamo parlato perché ci sembrava una notizia un po' da chiedo asilo, insomma. Come no? I bambini che preparano la cartella e mettono anche il moschetto dentro la cartella, appunto, ci sembrava una cosa da dire. Poi ne abbiamo riparlato la settimana dopo per semplicemente informare che le associazioni animaliste avevano poi fatto così tanta pressione sul sindaco che alla fine le lezioni erano diventate facoltative e fuori dall'orario di scuola. Noi non siamo qui per chiedere scusa perché abbiamo semplicemente scherzato su un argomento che si prestava allo scherzo. Io personalmente vengo dalla campagna, non ho niente contro la caccia, non ho mai fatto delle grandi crociate contro la caccia, nemmeno questa era una crociata contro la caccia. Figurati, io, Tito è un cane da caccia, vero Tito? Un po', insomma, da sì, bravo, stai calmo, dai. No, adesso no la caccia. Ma tu con la caccia? È un cane da tana, lui. Vabbè, certo, lui deve andare a stanare. Si infila nella e poi tana. Però poi tocca sparare nella tana al no, povera poi bestiola. Lo prendi per la coda, Tito, e lo tiri fuori, se capisci. E ha già preso la preda. O l'ha presa o l'ha fatta scappare fuori dalla tana e poi a questo punto il cacciatore gli spara. Deve avere abilità. Beh, insomma, abilità, deve avere la mira. Però comunque io con i cacciatori ho un rapporto complesso, perché da ragazzino in campagna gli tiravo i sassi con le fionde. Ma come? Ai cacciatori? Sì, ma per questo più che proteggersi dai sassi, il problema è che la fionda faceva scappare gli uccelli. Ah, ecco. E quindi disturbavo la loro battuta. E i cacciatori cosa facevano? Ah, niente, mi sparavano. No, ma non direttamente, sparavano un po' in aria e io sentivo la pioggia di pallini nell'albero. Sì, sì, sulle frasche dell'albero, la pioggia di pallini e mi abbassavo un po' e così. Allora è meglio. Ma la caccia è come la guerra, eh. All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un cacciatore che un cinghiale aveva ucciso senza mai perdere il sorriso. Grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto questa settimana. Continuate a farlo a Chiedo Asilo e Radio24.it. Ci risentiamo domani.